La carta geologica d'Italia è uno strumento importantissimo per la conoscenza del territorio, un sofisticato prodotto di ricerca multidisciplinare che dà un apporto importantissimo per la corretta pianificazione territoriale. Nasce sul terreno la carta geologica a cura dell'opera del geologo rilevatore che osserva, misura, descrive le rocce, i terreni affioranti e poi riporta le osservazioni su una carta topografica e attraverso l'utilizzo di simbologia, di colori e di schemi esplicativi, di un'apposita leggenda, si crea questa carta geologica che è un foglio colorato, ma non è soltanto una carta colorata, è una carta che contiene tantissimi dati, migliaia e migliaia di dati, che vengono poi stoccati in una banca dati che farà in modo che questi dati poi possano essere utilizzati per tutti gli scopi applicativi necessari. Quindi è un documento fondamentale e il progetto CARG è il progetto che la realizza. È un progetto di grande valenza scientifica, ma soprattutto di grande beneficio per la società, per il paese, perché è uno strumento molto importante per la sua salvaguardia. Per capirci, potrebbe essere utile, insomma, anche per capire il rischio idrogeologico di un territorio. Ovviamente sì. Perché contiene tutte le informazioni necessarie per i decisori politici, per gli amministratori locali. Io sinceramente auspicherei che tutti gli amministratori locali potessero utilizzarla la carta geologica prima di dare i permessi per le costruzioni o per impedire, laddove succede, come è successo a Ischia, di far costruire in maniera non corretta, diciamo così, ecco. Siccome la carta geologica contiene delle informazioni che ovviamente i tecnici possono leggere, solamente tecnici, solamente dei geologi, degli ingegneri possono leggere queste informazioni che devono essere poi di ausilio agli amministratori locali, quindi ci deve essere qualcuno che riesce a trasportare dalla carta geologica alla parola, al consiglio, all'amministratore locale che non può costruire in quella zona o che può farlo, che deve farlo in quella zona perché lì è più sicuro che un'altra zona. Quindi è un documento fondamentale, deve essere assolutamente completata la carta geologica perché al momento abbiamo raggiunto un 50% del territorio nazionale di copertura della carta geologica alla scala 50.000 ufficiale dello Stato, ma i finanziamenti praticamente sono conclusi col 2022. Dal 2023 la carta geologica non sarà più finanziata e quindi dobbiamo fermare le attività di produzione di questo documento fondamentale. Badi che la carta geologica non è una bacchetta magica, La carta geologica non ferma la frana, non ferma il temporale, ma può aiutare sicuramente coloro i quali debbano progettare l'urbanizzazione, programmare a livello urbanistico un territorio. Quindi questo è uno strumento che può essere utilizzato sicuramente per la prevenzione dei disastri, certo. Per la prevenzione di tutto quello che concerne l'utilizzo del suolo nel territorio. Di che tipo di finanziamenti viveva il progetto CARG? Il progetto CARG è iniziato alla fine degli anni 80 con un finanziamento che è durato, cioè che sono stati praticamente distribuiti nei vari anni fino al 2000. Di circa 81 milioni di euro. Poi dal 2000 è stato fermo per quasi 20 anni, fino a quando con le ultime tre finanziarie del 2020, 21 e 22 sono stati finanziati altri 31 milioni di euro con i quali abbiamo rimesso in moto il progetto. Abbiamo rimesso in moto il progetto e abbiamo praticamente avviato 67 fogli geologici, 6 fogli tematici, geomorfologici, idrogeologici, perché come dicevo prima, ma con i dati della carta geologica possiamo realizzare anche fogli di tematismi più di approfondimento. Quindi al momento noi abbiamo soltanto la copertura del 51%, a completamento di questi 67 fogli avremo il 55%, ma siamo ben lontani da raggiungere la copertura totale, mentre invece in altri paesi come la Francia per esempio sono già alla seconda edizione o anche addirittura per alcuni fogli anche alla terza edizione, perché ovviamente poi nel tempo i fogli invecchiano e devono essere aggiornati. Il finanziamento è necessario, ma non solo un finanziamento, diciamo così, per il foglio, specificatamente per il foglio geologico, ma un finanziamento per tutto il progetto. Cioè deve essere un finanziamento che ci garantisce la continuità del progetto, perché noi abbiamo necessità anche di assumere geologi rilevatori esperti che dopo un foglio magari non hanno più il lavoro e vanno da un'altra parte a lavorare, perdiamo risorse preziose, risorse diciamo scientificamente dotate. Quindi è molto importante riuscire in qualche modo a far comprendere a chi deve decidere per il nostro paese che questo strumento è fondamentale. È un problema culturale, problema di comprensione del che la geologia è una materia fondamentale che dovrebbe essere in qualche maniera già studiata già dai primi anni delle scuole elementari per far capire come è importante proteggere il nostro territorio, perché non deve più succedere quello che è accaduto a Ischia o quello che è accaduto a Genova o quello che è accaduto nelle Marche o in Sardegna. Non è il nostro territorio, è un territorio fragilissimo, abbiamo bisogno di proteggerlo. Se non conosciamo il territorio non lo potremo mai proteggere.